Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Mi convinco e presento la domanda di ammissione per l'Accademia Navale di Livorno, con la speranza di essere inserito nel gruppo degli allievi che completerà gli studi, perché la maggior parte di loro farà soltanto il biennio di ingegneria. Mi chiamo Giuseppe, sono di Roma, ho 58 anni, sono sposato, ho 3 figli. Non capita spesso, anzi, a dire la verità non capita quasi mai. Non capita quasi mai che raccontiamo 2 storie diverse della stessa persona nella stessa puntata. Il caso di Giuseppe, però, è un caso particolare perché lui usa 2 storie diverse per raccontare un pezzo di sé. Cioè sono 2 episodi che raccontano più o meno la stessa cosa. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e il programma si chiama Voi siete qui. Alla 3ª stagione di programma stiamo raccontando ogni giorno una storia di una persona diversa, un piccolo episodio, un avvenimento che in qualche modo racconti la vita di quella persona. E se avete voglia, se è la prima volta che ascoltate o che capitate dalle parti di questo programma, sapete che potete farlo anche voi, con il tempo che preferite, quando arrivate a casa, nel fine settimana, dopo esservi ascoltati un po' dei podcast che magari vi siete persi e potete risentirvi. E quello che facciamo è esattamente questo, è chiedervi una storia, un piccolo pezzo di voi, la mettete nero su bianco o sullo schermo di un computer e poi ce la inviate. Voi siete qui, @radio24.it. Dico piccolo episodio quando in realtà oggi noi raccontiamo episodi della vita di Giuseppe, 2 nella fattispecie, che raccontano la stessa cosa, che non sono per niente piccoli, perché hanno a che fare con la grande storia che entra nella sua vita, anzi la grande storia che non entra per tanto così nella sua vita. Se dovesse avere un titolo, la puntata di oggi si intitolerebbe Scampati alla storia, scampati a degli avvenimenti dai quali probabilmente potreste non esserne mai usciti. 349-238-6666 è il numero per mandare gli sms a questo programma, altrimenti a tutta la diretta in realtà di Radio 24, o altrimenti Voi siete qui Radio 24 sul profilo Facebook del nostro programma, Voi siete qui R24 è il profilo Twitter. Il mio profilo Twitter è semplicemente invece Matteo Caccia. Sono già arrivati dei messaggi sul profilo Facebook che parlano di persone che sono scampate in qualche modo alla storia. Claudio scrive: mio papà è scampato alla strage di Stava del luglio del 1985. Io avevo 10 anni ed ero al mare insieme a mia mamma. Lui lavorava in albergo e riuscì a salvarsi. Morirono 268 persone. Quella di Stava non è una strage di cui si parla spessissimo. È una cosa che è successa tra l'altro poco tempo fa, perché l'85 è 30 anni fa praticamente. E devo dire, l'ho conosciuta quando sono stato in Trentino a lavorare per 2 estati di fila, e lì ovviamente la sentono di più perché ha a che fare con quella zona, con quel territorio che ne è stato segnato per sempre. Era esattamente, eccolo qua, era esattamente il 19 luglio del 1985, e i bacini di decantazione della miniera di Prestavel ruppero gli argini e scaricarono 160.000 metri cubi di fango sull'abitato di Stava, che era una piccola frazione del comune di Tesero, esattamente in Trentino. Insomma, è una storia, ogni tanto se vi capita andate a cercarla. Guido: lo scorso anno mi sono trovato in un tamponamento a catena, questa diciamo è un po' meno macro storia questa, un tamponamento a catena di quelli che sei tranquillo in auto, sei fermo e senti una serie di botti che si susseguono e dici adesso arrivano, e invece poi non so come, ma sono rimasto illeso. 349-238-6666, oggi parliamo di questo, parliamo di episodi per cui ne siete usciti perché li avete scampati. Adesso la storia di Giuseppe sarà ancora più chiara, ma prima volevo leggere un messaggio che è esattamente questo qua. Giovanna: ero a Genova nel 2001, volevo semplicemente essere presente e protestare in maniera civile. Avrei dovuto dormire alla scuola Diaz. E diciamo già potrebbe fermarsi qui il racconto di Giovanna. Avrei dovuto dormire alla scuola Diaz, ma all'ora di cena, quindi poco prima che scendesse la notte, quella notte per cui non c'è bisogno di dire altro, mi chiamò mia mamma dicendo che non si sentiva tanto bene e io tornai immediatamente a Torino. Poi lei non aveva niente, ma mi risparmiò una serata, diciamo così, brutta. Diciamola così. 349-238-6666, altrimenti Facebook e Twitter. Ma adesso fate una cosa, mettetevi comodi, alzate un po' il volume della radio, perché quelle di Giuseppe sono 2 storie, sono 2 episodi che sembrano non avere nulla a che fare e invece vanno esattamente nella stessa direzione. Tutto l'inverno d'inverno, come di norma, l'avevo dedicato alla messa a punto del mezzo. Una gilera 125. Risparmio dopo risparmio, pezzo dopo pezzo, arrivò quell'agosto. Era il 1974. L'ultima operazione da compiere consisteva nel rabboccare l'olio delle forcelle. Fatto. Un amico più giovane di me, che era lì per darmi una mano, però purtroppo, maldestramente, avvitò uno dei dadi di traverso, rovinando completamente la filettatura. Scesi in strada per ricoverare il mezzo. Lì accanto trovai il mio amico che, mortificato, mi disse: «Mi dispiace, è stata colpa mia, ma perché non andiamo a Porta Portese?» Di fatto abitavamo nei pressi di Porta Portese e tutto sommato spendere dei soldi per il biglietto in treno e tentare invece di reperire un ricambio e partire in moto non avrebbe fatto molta differenza. Optai per la seconda ipotesi. Ci avviammo, io ero molto scettico in merito alle possibilità di successo. Eravamo in mezzo alla settimana, in agosto, nel tardo pomeriggio, con i bancarellari ormai quasi tutti chiusi per ferie. Eppure, davanti ai miei occhi, appesa come d'uso con del fil di ferro, una forcella gilera in perfette condizioni. Chissà il prezzo, pensai. 30.000 e te la porti via, mi disse. Tutto sommato, poco più del costo dei biglietti in treno andata e ritorno, quindi pensai che si poteva fare. In pochissimo tempo smontai e rimontai il tutto, rifeci lo zaino e partì in moto ormai al tramonto. Viaggiare di notte sulla via Aurelia fu un'esperienza unica. Con il buio cambia tutto, sei tu, il tuo mezzo e l'apparente nulla. Quella strada la conoscevo talmente bene da ricordare ogni curva, ogni casa. Il vecchio Dazio, i distributori di carburante, i bar. Una strada fatta tante altre volte con i miei da piccolo, andando in vacanza ma con una tappa quasi fissa in provincia di Livorno. Dopo una sosta anch'io nei pressi di Castiglioncello per ristorarmi ed effettuare il pieno, mi diressi quindi a Livorno e poi verso l'interna, Pisa, Lucca e il Passo della Betone, ma la stanchezza e il freddo pungente ebbero la meglio. Mi convinsi quindi a fermarmi in una piazzola di una stazione di servizio per pernottare. Misi la moto tra un pino e il muretto di cinta, stesi il mio sacco a pelo sulla ghiaia e mi addormentai. Faceva parte proprio del mio modo, diciamo, di vivere quell'epoca, l'età, quella dell'adolescenza, della spensieratezza, della voglia di, appunto, di viaggiare, di scoprire un po' il mondo, e approfittavo sempre di avere questi parenti al nord per fare questi lunghi viaggi estivi, insomma, del dopo scuola, diciamo così, ecco, definiamo così, del dopo scuola. Ormai sveglio ed apparentemente rinfrancato, ripresi il viaggio, ma dopo qualche decina di chilometri dovetti ricredermi, non potevo continuare in quelle condizioni. Trovai un altro distributore, mi addormentai. La mattina, alle 6, una voce lontana, sentivo ripetere: «Ehi, stai bene?» Mi alzai con la sensazione di aver dormito 5 minuti. Per contraccambiare l'ospitalità, feci il pieno e ripartì. Sull'altopiano emiliano attraversai paesi e borghi dove per la prima volta pensai che il tempo si può veramente fermare. Continuai, adesso mi aspettava la pianura padana, cara per i ricordi di infanzia legati alle stagioni estive passate interamente in quelle campagne presso la casa di mia nonna in provincia di Padova, dove io e mio fratello giocavamo agli esploratori. Insomma, avrei dovuto farla in treno con la strada, e invece, grazie alla forcella nuova, la feci con la mia gilera 125. Arrivai a Merano nel primo pomeriggio. Mio zio, all'epoca, viveva in un appartamento confinante con un'edicola. Il via vai ed il borbottio delle persone che si avvicendavano mi incuriosì. Tutte le prime pagine delle testate esposte riportavano la tremenda notizia. Il treno Italicus dilaniato dall'esplosione di una bomba nei pressi di San Benedetto Val di Sambro. Era il 4 agosto 1974. Tra me e me pensai: il mio treno. When I think of you in the city, the sight of you among the sights, get the sudden sinking feeling of a man about to fly. It's become the crux of me, I wish that I could rise above it. But I stay down with my demons, I stay down with my demons. Dopo qualche anno. Ho un amico che è partito da 2 anni per l'Accademia Militare di Modena. Quando a volte ci incontriamo, gli chiedo del suo mondo, come si trova, quali opportunità avrà, pregi e difetti di una carriera militare. Mi convinco e presento la domanda di ammissione per l'Accademia Navale di Livorno, con la speranza di essere inserito nel gruppo degli allievi che completerà gli studi, perché la maggior parte di loro farà soltanto il biennio di ingegneria. La selezione è dura, a cominciare dalle visite mediche, dove ne vengono scartati la metà. Poi iniziano le selezioni psicofisico-attitudinali, i test, i colloqui, la scuola di preparazione all'esame interno di ammissione. Vieni spersonalizzato. Non puoi indossare nulla che non sia negli indumenti previsti, non puoi avere baffi, barba, basette, catenine con crocefissi o anelli, neanche l'orologio. Hai o sei solo una matricola. I diretti superiori si divertono a lanciare piccole provocazioni personali per valutare le reazioni caratteriali. L'importante è intuirle in tempo per non cadere nel tranello. Le punizioni sono una minaccia sempre presente, sia individuali che di reparto. Si comincia con 5 giri di piazzale interno per finire ai 10 giri di stadio, 4.000 metri, fatti dopo pranzo e sotto il sole di agosto. Mai domo alle punizioni collettive per il principio che i responsabili debbano farsi avanti, una sera scattò una punizione di massa. La scelta di affrontare una carriera militare non venne così per caso, nel senso che avevo già avuto possibilità di confrontarmi con un amico in particolare che, essendo più grande di me, ovviamente aveva già intrapreso, diciamo, quella carriera, e quindi avevo fatto questa scelta non in modo così avventato, ma insomma come un qualcosa di voluto e di cercato. La responsabilità del proprio gruppo veniva fatta ruotare su ognuno di noi giornalmente, e quella sera era il mio turno. Gli ufficiali fecero disporre sul piazzale 5 gruppi alla volta e cominciammo 10 lunghissimi giri. Volendo fare bella figura, aspettando a me il compito di farli correre ordinati, ben serrati e al tempo, ad ogni passaggio dinanzi al corpo di guardia, ad alta voce impartivo i comandi a me più cari. Passo, passo, cadenza! Con grande eco all'interno del piazzale, ben presto imitato dagli altri 4 gruppi, ma si sa, non puoi essere punito per aver impartito degli ordini legittimi. Non soddisfatto della mia bravata, avevo notato in un altro gruppo 2 ragazzi in fondo allo schieramento con evidenti difficoltà di resistenza, nascosti nella penombra e dalle colonne. Ci sostituimmo a loro avendoli avvisati al giro precedente. Tra tutti i miei compagni, 3 li ricordo in particolare. Mekinez, tipo serioso, taciturno e misterioso. Non rispondeva a tutte le domande, però era ormai il suo riferimento, oltre che per carattere anche per l'età. Gli unici nonni del gruppo con i nostri quasi 28 anni. Portoghese, simpatico, allegro, scherzoso e pronto alla battuta, gran chiacchierone. Verna. Ci capimmo al volo. Un giorno mi disse: Farì, se ti danno fastidio, dimmelo che li sistemo io. Tipo tranquillo, allegro e disponibile, collega di tante punizioni, il Verna. Dopo parecchio tempo e molto vociferare, ci diedero gli incarichi. Però ci dissero pure che non erano in via definitiva, avrebbero fatto delle verifiche a fine corso sui posti disponibili. Intanto, quotidianamente, alcuni ragazzi rassegnavano le dimissioni. Quest'ultimo periodo fu veramente difficile per me. Assegnato alla carriera militare e non all'università. Arrivò l'ultimo giorno e dissi no, grazie. Era ottobre, l'anno il 1976. 5 mesi dopo, il 3 marzo 1977, il velivolo Hercules C-130 Vega 10, partito da Pisa per un volo di ambientamento con a bordo 38 cadetti dell'Accademia, si schianta sul Monte Serra. Erano tutti gli amici del mio gruppo, con i quali avevo condiviso quell'esperienza unica, che non si può certo descrivere in una sola pagina. Il nome scelto per il corso fu Invicti. Queste esperienze mi hanno portato in seguito a vivere la mia vita sempre con un atteggiamento di sfida verso il destino, verso il lavoro e verso lo sport. There was a time when I was younger, and all the nights and days were long, and every day just getting stronger, like a sunflower in the sun. Before paradise lost and innocence gone. È felicemente abbracciato alla propria moglie Giuseppe su un lungomare che mi sembra essere ripeto, mi sembra essere quello di Livorno. È estate, sono in maniche corte, sono appunto abbracciati come due ragazzini e guardano dritti nell'obiettivo. Pronto Giuseppe? Buongiorno Matteo. Buongiorno, come stai? Bene, tu? Benone, ti ringrazio. Senti, confermami, siete a Livorno sul lungomare di quella foto? Sì, è Livorno. Ah, okay. E alle spalle c'è proprio la famosa accademia. Infatti, diciamo che ho azzardato perché mi sembrava contestualizzata rispetto alla storia. Sì. Giuseppe, guarda, permettimi di chiarire quello che dicevo prima, ed è che noi abbiamo raccontato queste due storie di Giuseppe perché vanno, anche se sono episodi diversi, vanno nella stessa direzione. Cioè che per un motivo o per l'altro sei scampato a due tragedie. Una... Sì. Un po' più conosciuta dell'altra, però insomma dall'Italicus, che tu sostanzialmente dovevi salire su quel treno. Se non avessi trovato quella forcella a Porta Portese, saresti salito su quel treno. Probabilmente, insomma, l'avrei raccontata diversamente, spero. Immagino. E allo stesso modo, probabilmente, se avessi scelto di continuare a fare la vita militare, forse saresti stato su quell'Hercules C-130. Sì, probabilmente, perché quelli erano proprio tutti i miei compagni di camerata, insomma, come si usava a dire, come si usa dire normalmente quando si fa il militare, stai con dei compagni con i quali condividi, diciamo, ogni momento della giornata, quindi non erano semplicemente amici di un altro corso o di un altro luogo, insomma, erano proprio i miei fidati compagni. Tu che cosa hai fatto dopo nella vita, Giuseppe? Dopo nella vita, nel senso che ho lasciato la vita militare, tentativo di fare l'università soprattutto. E niente, ho cercato lavoro, ho trovato lavoro, ho messo su famiglia, la prima famiglia, diciamo che non è andata a buon fine. La seconda sì? La seconda è quella della foto e che ancora sta lì. Ok, okay. Quindi adesso, ma sei già in pensione, Giuseppe, no? No. Ho ancora da lavorare per altri 7-8 anni, credo. Ah, ok. E cosa fai più o meno? Io, guarda, sono un soddisfatto meccanico delle officine della metropolitana di Roma. Ah, giusti i treni della metropolitana? Mm-hmm. Ma che figata! Cioè, proprio metti le mani, vabbè, niente. Vorrei star qui tutta la giornata, ma purtroppo non ce la faccio. Giuseppe, io ti ringrazio moltissimo per le due storie e un'unica direzione. E a sto punto, salutami la tua seconda moglie. Grazie tanto. Ciao, presto, grazie. Ciao, presto. Ciao. Niente, dobbiamo chiudere perché oggi la storia era particolarmente densa, quindi ringrazio tutti quelli che l'hanno resa possibile, che sono stati Tiziano, Paolino e Margherita. Ringrazio soprattutto Giuseppe perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Jesco, vivo a Krasnojarsk e la storia di domani è la mia e parla di un trasferimento in Siberia su base volontaria. Questa è la mia storia e io sono qui.